Boys and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo. Un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Drago, dai, saluta che chiudo la porta. Ciao. Oggi ciao. È la vigilia dell'Epifania, sì. quindi domani è festa, sì, festa. È festa per gli altri. Ma come? E per noi no. Eh no, ma quante volte te lo devo dire, dai? Questo è un tipico comportamento infantile che mi dà fastidio negli adulti. Quale? Quello di far finta di non capire. Ma io non faccio finta, io mi dimentico. Memoria corta. Dipende, perché mi ricordo bene le cose di qualche annetto fa, e quasi niente di quello che succede adesso. Vabbè, dai, ieri sì, succede prima. Anche a me. Succedeva a mio nonno. Per forza, Drago, non possiamo mica immagazzinare tutte le informazioni di una vita alla stessa maniera. Ormai guarda, dopo l'hangover mi è tutto chiaro. Comincio a vedere il significato. No, la luce, purtroppo no, delle cose. Purtroppo non è la luce, però il significato, che non è detto che sia luminoso. Comunque ogni tanto l'hard disk bisogna svuotarlo, insomma, bisogna fare un po' di spazio. Senza backuppare niente. Ma non lo so, forse a livello inconscio si backup, forse si backup. Però poi per riportare tutto a livello conscio bisogna ricorrere all'ipnosi. L'unica soluzione l'ipnosi è quella, perché ho il pentotal. Ah, come Diabolik. Sì. Che lo usava per far confessare. Dove sono i gioielli? Non te lo dico. Tac, pentotal. Sì, ho pentotal, ho ipnosi, una menata. Sì, immagino. Però non ho capito. Tu hai detto ricordi bene le cose di qualche anno fa. Non ricordi quelle recenti. Giusto. Quindi, tipo, per ricordarti gli impegni di lavoro, cioè deve arrivare l'ipnotizzatore. Sì, cioè in teoria. Sì, però l'ipnosi è una menata, te l'ho detto. E quindi preferisci non ricordarti niente, stupirti ogni volta che ti ripeto che qui si lavora sempre anche il giorno della Befana. Per me è tutto nuovo, Drago. Io vivo tutto con sorpresa, come un bambino. Siamo a posto. Vabbè, dai, Drago, cos'hai lì sotto il mento? Dove? Che scherzo stupido, poi alla radio manco si capisce. Vabbè, ma all'asilo sì. E ora, bambini, ricreazione! Oh, ricreazione, ho un'idea. Sì. Facciamo l'intervista, certo, così sei contento. Non si discute, Però non la facciamo al bambino Alberto, cambiamo soggetto. Ma bisogna conoscere un altro bambino, capirgli la fiducia. Ma no, la fiducia. Un casino. Allora facciamo così, chiediamo a Tito. Ma come Tito? Ma Tito non è un bambino. Ma parla con gli sguardi, con gli occhi. Sì, esatto, alla radio va benissimo. Vabbè, ma noi tu traduci. Sì, traduci da... Allora, Tito. Tito. Allora, Tito sta mangiando gli occhi a una pecora. Dimmi, qual è la prima cosa che ti ricordi della tua vita, Tito? La tua prima immagine, dimmela con gli occhi. Con lo sguardo, dai Tito, su. Ma non ci sta nemmeno guardando. Infatti. È dedicato qui a mangiarsi la sua pecora. Forse non va bene come idea. È meglio tornare alla vecchia idea. Bambino Alberto. Sì. Eccoti. Cosa volete sapere? La solita cosa, farti qualche domanda, qualche domandina, facile. Ditemi. Qual è il primo ricordo che hai della tua vita? Quando eri proprio piccolo, prima ancora di quando i tuoi ti portavano con la culla e ti parlavano di Bertinotti per tutto il tempo. Beh, allora, quando sono nato. Cioè l'istante in cui sei nato? Sì. Istanti immediatamente precedenti. Ancora precedenti. No, perché è il mio ricordo più vivido, la nascita. Ma sì. Come? Ma lo dicono tutti quelli un po' mitomani che vogliono essere diversi dagli altri. Ma io mi ricordo benissimo i momenti precedenti il parto, perché è stato un incubo, Sì. È una specie di terremoto. Ma vabbè. Perché mia mamma poi, siccome sempre lì comunisti, voleva fare il parto naturale nella vasca da bagno con mio padre che gestiva la situazione. Vasca da bagno. All'ultimo momento mio padre si è tirato indietro. Quindi c'era mia madre dentro la vasca da bagno immersa nell'acqua fino al collo. Mio padre tremante che diceva no, mia madre dai che tardi. E quindi? E mio padre, allora mio padre ha chiamato l'ambulanza. Oh, ma cos'è sto fracasso? Cosa succede? Chi mi paga ora? Tenga dentro la testa del bambino oppure ci partorisce in corridoio. Ma no! Le metta la mano tra le gambe e tenga dentro la testa. Oh, fermi però, Inspiri a fondo, signora. A fondo tra le contrazioni. No! Serve un'anestesia. Non vorrei mica... Fa venire il pediatra. Fammi uscire. Aggancia quell'età. Fa un'episiotomia. Manca il tempo, è già in espulsione. No, l'espulsione. Non adesso, vi prego. Fatemi rimanere qua dentro. Inspiri a fondo. No, io non voglio uscire. Io cosa devo fare? Così, dottore. Mamma! Sta nevicando fuori. E nevica pure. Continui a tenerlo dentro, metto i guanti e subentro io. Ma no, subentro, sono io che devo stare dentro. Le trovo un camice? No, il camice, no, il camice per farlo. Mamma, Dovremmo farla partorire così come siamo ora. No, io sto dentro. Non è vero. Stia tranquilla, cara, andrà tutto bene. Non mi fido di questi qui. Sì, sì, respiri, così. Qui c'è il rischio della mala sanità, Sta nevicando. Sì, sta nevicando. È il 17 marzo e nevica. E poi nevica ancora, fa un freddo terribile fuori. Io voglio rimanere dentro qui, che c'è caldo. Si tolga ora, subentro io. No, no. Tutto a posto, signora. Subentro per cosa? La prossima contrazione, una bella spinta, d'accordo? No, no, bene, non spingere, non spingermi. Non spingermi, per favore. Tre. Mamma, e questo dove mette la mano? Mi senti che urla la mamma? Ok, di nuovo, ecco la contrazione. No, ma non è educato a spingere, non si fa. Spinga, no, non spingere, mamma. Dai, per favore. Spintarella, sta venendo fuori. Ma no, dai. Uno, due, tre, spinga. Mi prego, no, spinga, non spingere così, più, così, fermati. Ancora, che sento? Siamo già fuori. Ma no. Lei ha messo al mondo un bellissimo giovanotto. No, ma perché invece sempre di parlare del bambino Tremonti, il bambino Berlusconi, non facciamo qualcosa che appartiene di più veramente a noi bambini, a tutti noi bambini, tipo, grandi e piccoli, tipo i primi ricordi. I primi ricordi. I primi ricordi, Drago. Tu per esempio, tu qual è il tuo primo ricordo, quello che ti ricordi per la prima volta? Il primo, il più vecchio, proprio quello di quando ero, forse qualche poppata tarda, mi ricordo che ero... Tarda, perché ero, mi pare... Dalla parrucchiera, mia madre, mi sembra, una volta, cioè non io, mia madre era dalla parrucchiera, io ero piccolo e piangevo di avermi fatto poppare, però non so fino a che età si può poppare, con la parrucchiera, no, magari, però voglio dire, fino a che età si allatta un bebè, ma che ne so, Drago, non lo so, però ricordo bene ad esempio la festa del mio quarto compleanno, ricordo anche il capodanno del 71, 72, non ricordo più, quelli sono i primissimi ricordi, comunque feste, capodanno, compleanno, tu invece? Io mi ricordo la scelta dell'omogeneizzato. Addirittura. Tra carne e didi, però ho questa strana memoria che uno di questi barattoli contenesse carne d'asino. Quale asino? L'asino di Buridano. Vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo. Alla fine rimane lui e muore di fame. Vabbè, quindi la carne d'asino, l'asino di Buridano, i tuoi ricordi remoti. Ah, ecco, poi funziona bene. L'omogenizzato d'asino, di Buridano non lo so, d'asino sicuro. Invece però ti ricordi che domani si lavora, tipo? Ma come? Sì, come domani tipo? Si lavora, domani. Alla Befana domani. Ma quale Befana? La Befana lavora anche lei domani, è contratto a Cottimo, deve consegnare. Questo è molto divertente. Se siamo qui domani tutti e due, ti faccio gli auguri domani. Beh, qui anche tutti adesso e due. Vanno bene. È la vigilia, si usa anche quindi fare gli auguri. Te li faccio adesso. Ma falli quando vuoi, anzi, te li faccio io, dai. Auguri di buona Befana. Occhio alla calza, Ma già, la calza. Anche tu la calza. Ah, sì, la calza. Che calza metti tu? Ma io non so, l'autoreggente, forse anche quella Gheppier, no? Ma completa. Tu adesso metti quella, c'hai quella addosso. Drago, per la Befana, ma cosa fai? Buona Befana! Vabbè, per mail arrivano anche cose banali, però buona questa Befana. Questa l'ha scritta Tito. Ah, vabbè. Bravo Tito! E mandate i vostri primi ricordi a chiedoasilo@radio24.it.